soltanto una smorfia irreale, un riso impassibile come quelli dei comici dei saltimbanchi. Toltomi questo, cosa rimarrebbe? Accompagno chi ride di me, della mia stranezza senza grazia, un brindisi alla mia mediocrità. Mi tocchi e mi chiedi serietà, come se potesse salvarmi, come se fossi davvero qui, come se sapessi andare a tempo. Sono una ferita nella terra, arrogante e profonda nella storia, un brindisi alla mia mediocrità. Come se riuscissi a scrivere parole nuove, lettere in mode di rado, intravedo le statue perfette nel cielo e mi illudo di poter trascinarne una in questa terra ed esserne una squallida copia, un brindisi alla mia mediocrità. Un brindisi alla mia malattia, un brindisi alla mia malattia, un brindisi alla mia malattia, un brindisi alla mia mediocrità.